verità, da quello che ho letto io, e poi se qualcuno ovviamente ho letto male, mi contraddica volentieri, è nel momento stesso in cui tutti lo pensano, ed è un'ipotesi quella più concludente, tra altre cose, prima di arrivare al punto ti consiglio un bellissimo libro che si chiama Coscienza, che l'ho finito di leggere proprio in questo tempo, della Codice Edizioni di Susan Blackmore, che è una psicologa, che parla appunto della coscienza, e c'è un capitolo dedicato alla coscienza negli AGI, nell'intelligenza artificiale. L'AGI raggiungerà il suo punto culmine quando avrà consapevolezza del sé. E quindi praticamente non sarà più un semplice sistema funzionale, ma cioè, un po' come le menti umane, comprenderà il proprio io. Anche se Susan Blackmore dice una cosa interessante, quando parla di coscienza, in realtà la coscienza umana è un'illusione. Capisco che è molto duro da dire, ma è un'illusione a cui noi non possiamo scampare, tra le altre cose. Quindi anche se tentiamo di sfondare questo muro, non ce ne rendiamo conto. E forse, molto probabilmente, accadrà anche alle singolarità. Avranno consapevolezza di sé e sarà lì il momento culmine, cioè il punto della singolarità. Nel momento in cui stesso, avendo conoscenza e consapevolezza di sé, si comprenderà in quanto entità.